YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E quindi buonasera e bentornati a Radio Tube, la prima puntata del 2015 dopo una brevissima pausa con un meglio di durante le vacanze di Natale. Siamo tornati, Daniele. Incredibile, c'è stato persino un meglio, però invece l'inizio del 2015 verte al peggio, difficile, diciamo. Molto difficile, e non sarà facile neanche questa puntata perché gli argomenti sono importanti. Sono tosti. Dunque, i nostri account sono però rimasti gli stessi del 2014. Anno nuovo, account vecchio. Account vecchio, et Marta Cagnola, et di Bellasio. Mentre l'hashtag della trasmissione, cancelletto Radio Tube. Quella del sabato del villaggio è rimasto lo stesso di hashtag? È rimasto lo stesso ISDV, il sabato 2000. Del villaggio. È 2000. Stato un inizio d'anno difficile. Molto tosto, perché obiettivamente le cose di cui si è parlato di più sui social network, le cose che si sono viste di più sui siti, sono cose che non fanno ridere. Sono cose che preoccupano, e sono cose che, come dire, attirano l'attenzione e anche le discussioni se mostrare o no le cose che abbiamo visto sui vari siti. Devo dire che le riflessioni sulla rete sono sempre più di attualità, e questa puntata non possiamo non dedicarla in gran parte a quello che è successo a Parigi, anche perché quello che è successo a Parigi è stato da subito veicolato da video che si sono diffusi in rete veramente con una velocità impressionante, in rete, nelle televisioni. Beh, insomma, l'audio è quello che purtroppo appartiene al video che abbiamo visto tutti. Io devo dire che il video dell'attacco alla redazione di Charlie Hebdo a Parigi il 7 gennaio me l'hai mandato tu, Daniele, me l'hai mandato subito tu, ed è stata Anche perché era da subito praticamente rete. Giornalisti impiegati, insomma, personale del settimanale che sale sul tetto del palazzo, qualcuno riprende verso la strada, qualcun altro non riesce a riprendere verso la strada, riprende le scarpe, poi si rivede la strada. Insomma, è subito diventata una sorta di visione in presa diretta del terrore. Ne parliamo con il professor Marco Lombardi, è un esperto di terrorismo, insegna sociologia all'Università Cattolica. Le sue riflessioni si trovano sul sito itstime.it, che è un centro di studi molto attento, appunto, afferente all'Università Cattolica, proprio sulla sicurezza e sul terrorismo. Buonasera, professor Lombardi. Buonasera. Buonasera, buonasera, eccomi a voi, auguri per questo drammatico 2015. È iniziato in maniera molto difficile, è iniziato proprio difficilmente quest'anno. Professore, lei, intanto le chiedo cosa ha pensato quando ha visto questi video. Ma si è tornati improvvisamente indietro nella diretta delle Torri Gemelle, perché qualcosa di simile in termini di trasmissione immediata di quello che accadeva tornava indietro allora, forse per certe cose all'attacco di Mumbai, ma direi più alle Torri. E ormai è quello a cui dobbiamo abituarci. Insomma, la realtà penetra nelle nostre case in diretta immediatamente, ed è emblematico quello che voi avete fatto sentire poco fa, riportandoci a rivivere quello che è accaduto un paio di giorni fa. Credo sia stata poi forse una delle prime volte, appunto, lei ci ha riportato all'11 settembre, in cui noi vediamo tutto dal punto di vista delle potenziali vittime. Credo che rimarrà nell'immaginario collettivo necessariamente più di tanti altri fatti. Ma assolutamente sì, ormai noi viviamo in soggettiva. Cioè, di fatto è questo, è come improvvisamente il mondo si fosse spalancato con una soggettiva costante, cioè la camera che è l'occhio, no, dell'attore che sta vivendo la situazione, solo che la situazione non è falsa, gli attori non sono attori ma personaggi reali, e la soggettiva è la rappresentazione della vita, alla faccia del buon vecchio McLuhan, no, che diceva dei media che diventeranno il villaggio globale, l'estensione dei sensi. Qui siamo proprio dentro la soggettiva, è un nuovo modo di vedere che è estremamente interessante sul piano mediologico, se vogliamo, sul piano teorico, sul piano sociologico, ma anche evidentemente sul piano investigativo, sul piano della sicurezza, dell'analisi degli eventi come quello di Parigi, perché si acquisiscono in tempo reale anche delle visioni drammaticamente interessanti per cercare di capire quello che è accaduto. Quanto il terrore, il terrorismo tiene in considerazione il fatto che le sue azioni saranno anche viste come un film, cioè saranno anche viste con immagini in presa diretta, in soggettiva, come diceva lei? Oh beh, il terrorismo è assolutamente consapevole di questo, ma lo è da sempre. La parola terrorismo significa fare paura significa minacciare. La minaccia da sempre passa soprattutto attraverso la comunicazione, non necessariamente attraverso la realizzazione dell'atto. È piena la storia del caidismo di questo tipo di eventi negli ultimi 10 anni. Per cui il terrorismo è sempre più consapevole di questo, e la storia di questi ultimi anni che fa riferimento allo Stato Islamico ci fa vedere come con grande competenza la comunicazione del web, più in generale la comunicazione, venga usata con una regia, uso la parola di proposito, regia, quindi non solo uso degli strumenti appropriato, ma uno uso concertistico di tutti gli strumenti, quindi con una regia finalizzata a ottenere dei risultati specifici. Ecco, con le ragioni che spiegava lei in precedenza, anche le ragioni dell'intelligence, delle inchieste, e anche il dibattito sul diritto di cronaca, collide un interrogativo che sulla rete in questi giorni c'è stato: mostrare o non mostrare un particolare video che, credo, Marta, noi siamo in grado di almeno ascoltare. Questo è il famoso video che sui siti è stato mostrato, ed è il famoso video del poliziotto a terra che chiede, insomma, si arrende, dice mi arrendo, con un gesto, eppure viene freddato da un terrorista che dal punto di vista militare, perfetto nei movimenti, lo uccide. Mostrare o non mostrare questo video è l'interrogativo che c'è stato sulla rete. Io dico subito che penso sia giusto mostrare, perché il diritto di cronaca, se non è diritto di cronaca in queste circostanze, non lo è davvero mai. Però mi rendo conto che c'è molta gente, e magari anche con ragioni molto professionali e competenze molto superiori alle mie, che pensa invece sia sbagliato, non soltanto per questioni di rispetto nei confronti della vittima. Professore, tra l'altro io mi chiedo in rete, ma aggiungerei anche nei telegiornali, certo, perché in rete si va a trovare magari scientemente, invece nei telegiornali io l'ho visto, ad esempio, non con la figura del poliziotto sfumata in alcuni TG, invece in altri no. Molto evidente, e anzi magari nei titoli. Professore, lei cosa ne pensa? Allora, non è una facile risposta, anch'io l'ho visto in tutti i modi possibili, ed evidentemente c'è una distinzione tra la rete dove vado a cercare e i media dove mi viene somministrato. In questo caso specifico entra in gioco, dal mio punto di vista, il rispetto per la persona, però mi si lasci anche dire che è necessario andare alle radici di queste domande, perché qui ci si interroga sul rispetto della persona e c'è tanta satira che diventa satira senza affatto rispettare le persone. Dal mio punto di vista rispetto le persone, ma credo anche che in questo caso questo video non sia lesivo nel mostrarlo del rispettare le persone, ma risponda al diritto di cronaca, cosa che per esempio non è, dal mio punto di vista. Molti molti altri video che artatamente il terrorismo mette in rete per fare proselitismo, per fare formazione e quant'altro. Questi, a mio modo di vedere, non appartengono più al diritto di cronaca, e su questi è diritto esercitare una qualche forma di censura, uso di proposito questa parola. Dobbiamo assumere dei presupposti, che il terrorismo è comunicazione, ricordiamoci questo, il terrorismo è comunicazione, il terrorista non scappa in un angolo del mondo per godersi il bottino, il terrorista vuole far vedere qual è il risultato della sua azione, perché è su quello che si basa la sua minaccia. Allora, questo è il primo punto di partenza. Il secondo punto di partenza è il diritto di cronaca, la libertà di espressione, che è il valore del nostro mondo, sul quale si stanno puntando e vogliono distruggere i terroristi con l'attacco a Sharjah. E l'altro punto che coinvolge i media, secondo me importante, è che comunque, stando il diritto di cronaca, esiste una forma di responsabilità. Ogni comunicazione è un effetto, produce un effetto. Allora, i media, nella tutela del diritto dell'informazione, devono assumersi anche responsabilità rispetto all'effetto che la loro comunicazione ha sul pubblico. YouTube. Rieccoci insieme ancora con Daniele Bellasio, con Marta Cagnola per RadioTube. Come sempre, noi siamo abituati a dire l'imperdibile, l'imperdibilissimo della settimana. Questa settimana è un po' difficile perché necessariamente attraverso la rete, e soprattutto questa settimana, abbiamo avuto tutte le notizie dalla Francia, da Parigi, dall'attacco a Charlie Hebdo. Daniele, poco fa parlavamo con il professor Marco Lombardi, che è ancora con noi, che è un esperto di terrorismo. Io voglio segnalare il sito del centro studi itstime.it, che si occupa di terrorismo, sicurezza e gestione della crisi all'Università Cattolica. Parlavamo del modo che hanno i terroristi di utilizzare la rete. Ovviamente le immagini dell'attacco a Charlie Hebdo sono state involontarie, perché non sono stati loro stessi a filmarsi, ma chi è riuscito a salvarsi, che in maniera... Questo non è detto, ci sono state anche voci dell'ipotesi che i terroristi stessi anche il avessero intenzione di registrare, di filmare, sì. È un'ipotesi. Ci sono invece dei video che dichiaratamente vengono utilizzati dai terroristi, che vengono utilizzati dall'ISIS. Ad esempio, è il caso di quello che sta succedendo con John Cantley, che è un giornalista che è nelle mani dell'ISIS, ma che sta, ovviamente è obbligato a farlo, lavorando da documentarista nelle mani dell'ISIS. Questo è un brevissimo estratto di un video particolarmente importante. Tra poco col professor Lombardi spiegheremo perché. Hello, I'm John Cantley, and today we're on top of the world in Mosul, overlooking the second largest city in Iraq and under the complete control of the Islamic State for over 5 months. Mosul is an ancient trading city and a Sunni province, as much of Iraq used to be before American-led invasions and pro-Iranian governments changed the political map. Anche chi non conoscesse bene l'inglese capisce che è uno stile documentaristico asciutto all'anglosassone, con delle venature particolari, per esempio nel tono di voce. È inquietante. John Cantley, questo video tra l'altro non si trova più su YouTube, è stato rimosso. Professor Lombardi, come è andata questa vicenda? Allora, comincio dall'ultimo punto per poi inquadrare i video di Cantley. È interessante il fatto che YouTube l'abbia cancellato dicendo che non rispetta i codici del servizio. Veramente ne sono perplesso, perché, come è stato detto, si tratta di un reportage con aspetti estremamente poco cruenti, che in genere sono quelli che fanno rimuovere i video dai social. Per cui c'è stata un'azione censoria diversa rispetto a quelle che sono i normali criteri usati dai censori dei servizi. Aspetto interessante da capire se è dovuto a una svolta strategica dei servizi social, se è casuale, dovuto a spinte che vengono da altre agenzie nei confronti di YouTube o quant'altro. È una novità importante e questo è un aspetto che diventa ancora più interessante, perché John Cantley ormai è all'ottavo video. Ne eravamo abituati a vederlo nei primi sei video con la tuta arancione del prigioniero di Guantanamo seduto a una scrivania che sfrugugliava con commenti molto interessanti quelli che erano i temi importanti della politica e delle strategie intorno a ISIS. Poi improvvisamente col primo video From Inside Kobane e il secondo che è From Inside Mosul, Kobane ve la ricordo la città sotto attacco di ISIS al confine turco, improvvisamente cambia ruolo, non è più il prigioniero che quasi con una pistola alla testa che si intravede sullo sfondo nero viene costretto a recitare, diventa il testimonial di ISIS, cioè diventa il testimonial dello Stato Islamico per far vedere come si vive bene nello Stato Islamico. Un salto di qualità incredibile che si spiega con la complessiva e importante regia che dei media ha lo Stato Islamico, tutta finalizzata ad accreditarlo come uno Stato legittimo, perché questo è l'obiettivo. Ricordiamoci che l'altro giorno, tre giorni fa, oggi è sabato, hanno pubblicato il loro primo budget statale, IS. Per cui c'è sicuramente questo indirizzo statuale che è del tutto innovativo in un gruppo terroristico ed è particolare del califfato, che appoggia e si appoggia su una struttura mediatica molto complessa, in cui Cantley è uno degli attori principali in una serie di almeno 5-6 strategie parallele che vanno a colpire target diversi, molto intelligenti tutte, sicuramente fatte, mi perdonate la battuta, da qualche studente che abbiamo formato nelle nostre università, che ha preso bene e sa mettere in pratica molto bene l'utilizzo delle tecnologie e dei media. In questo particolare, come dire, rimescolamento dei mondi, quello che stava raccontando lei, degli strumenti, delle comunicazioni, c'è anche l'aspetto legato alla nazionalità e alla provenienza culturale dei terroristi, e piace molto ai media raccontare questa nuova figura del terrorista che per gran parte della propria identità culturale è esattamente come noi, un occidentale come chi vive a Parigi. È inquietante come ricorra questa identità da ex rapper. Sì. È successo nel caso di Abdelbari, accusato di essere stato uno dei decapitatori di ISIS, che era un ex rapper, e anche nel caso di Sherif Kouachi, uno degli attentatori di Charlie Hebdo, si è scoperto un video di una decina di anni fa, 2005, che era stato trasmesso da France 3, una trasmissione sul terrorismo. Lui, 10 anni fa, era raccontato dalla televisione francese così. Sherif Kouachi. Nous le voyons sur ces images d'un film associatif tourné durant l'été 2004. Sherif a alors les rêves de beaucoup de jeunes du quartier. C'est un fan de rap, plus prêt à profiter de la vie et des jolies filles que d'aller à la mosquée. En quelques mois, lui aussi va devenir un élève assidu de Farid Benyettou. Infatti questo video racconta come lui fosse noto per essere un ragazzo normale al quale interessavano maggiormente le ragazze piuttosto che andare in moschea, e che faceva il rapper. Dicevi appunto, Daniele, la fascinazione per un passato che ci è assolutamente vicino e che poi invece prende delle pieghe. Sì, anche perché diverse. Spesso siamo molto alla, o forse addirittura a volte troppo alla ricerca delle nostre colpe, e quindi dobbiamo dire che comunque nel magma delle culture le nostre colpe fomentano o attizzano o cambiano la mentalità delle persone. Professore, che cosa ne pensa di questo, di questa continua ricerca dell'identità culturale mista? Ma guardate, la musica dal centro è sempre al centro di movimenti di vario tipo. Il terrorismo islamico si è prima utilizzato in Ashid, i canti tradizionali, per poi arrivare al rapper. Non dimentichiamo che il digital jihad veniva distribuito ancora con i vecchi VHS già da una quindicina di anni fa nelle moschee della Gran Bretagna, e già allora i rapper attraverso il VHS se promuovevano il jihad, quindi ha una storia lunga che molto spesso è passata nella disattenzione occidentale. Prima riflessione. Seconda, questi sono giovani e viviamo in un mondo, uno, che è globale e che in cui le tecnologie della comunicazione sono pervasive, ma questo non vuol dire che di sfondo e di sfondo non ci siano delle diversità profonde che rimandano a quelli che sono i valori fondanti della propria cultura e porta dunque a vivere magari in maniera diversa l'impiego degli stessi strumenti o delle stesse situazioni. Insomma, non confondiamoci l'idea che l'islamista che sta combattendo in qualche area siriana, magari in ciabatte, una K47, non abbia il telefonino o non sia connesso. Le tecnologie entrano dappertutto, le usiamo in maniera diversa e le usiamo in maniera diversa anche in riferimento a dei valori profondi che contraddistinguono le nostre culture, perché su questo non è vero che c'è meticciato. Su qui io sono abbastanza duro. Parigi l'ha dimostrato. Lo scontro di Parigi sul drammatico sul quale si deve ragionare è che è stato attaccato un giornale perché nel nostro mondo la libertà individuale che si esprime attraverso la libertà dei media, la libertà di stampa, fonda la società. Nell'altro mondo che esprime il terrorismo, la società si fonda invece in rapporto a Dio. Questa è la società traguardata da una parte di chi mette come sfondo della sua cultura la libertà individuale e dall'altra chi la traguarda attraverso gli occhi della divinità. Su questo c'è lo scontro ed è profondo e poche storie, è uno scontro che dovrà essere risolto, mi auguro, col dialogo, perché altrimenti il massacro delle matite, come lo chiamo io, quello di Charlie Hebdo, è l'inizio. Ecco, professore, prima di salutarle, prima della pausa, lei parlava giustamente del giornale di Charlie Hebdo. Ne abbiamo parlato poco finora delle vittime perché abbiamo preferito parlare dell'aspetto legato al terrore e ai video. Però Stéphane Charbonnier, più noto come Charb, il direttore di Charlie Hebdo, aveva spiegato la linea editoriale irriverente del proprio giornale proprio in riferimento a quello che diceva lei, professore, cioè il rapporto con Dio, con la divinità nella nostra società. In un'intervista di 2-3 anni fa, nel luglio del 2012, sentiamo che cosa diceva. When a Salafist or a Catholic say us you can't represent God or you can't laugh at God because it's a blasphemy, we said if you are afraid by a draw, your God is very, very small. Your prophet, it's a midget. If you are afraid with our draws, it means your God have no power. A draw, it's powerful than God. It's not possible. Eccolo qua, se siete spaventati da un disegno, il vostro Dio è molto piccolo, il vostro profeta è nano, significherebbe che un disegno è più potente di Dio e questa cosa, insomma, non può essere reale. Questo è un'intervista che aveva rilasciato Stéphane Charbonnier, il direttore di Charlie Hebdo, una delle vittime dell'attacco del 7 gennaio. Io ringrazio il professor Lombardi per essere stato con noi. Vi segnalo ancora una volta, per tutti gli approfondimenti, il sito del Centro Studi dell'Università Cattolica, It's Time, scritto proprio itstime.it. Grazie professor Lombardi, buonasera. Buonasera. Grazie a voi, buona serata e grazie. YouTube. Rieccoci insieme per questa puntata di Radio Tube, ancora con Daniele Bellasio, chiocciola di Bellasio su Twitter, sì, ancora con Marta Cagnola. Marta Cagnola. Twitter, l'hashtag è sempre Radio Tube. Inevitabilmente questa puntata dedicata in gran parte, lo stiamo facendo, al massacro di Parigi, a quello che è successo a Charlie Hebdo. Era un po' inevitabile, noi parliamo della realtà attraverso quello che succede in rete. Beh sì, questa volta non si poteva parlare d'altro. Devo dire che tengo molto a quello di cui stiamo per parlare, intanto perché faccio il giornalista e perché mi sono sentito veramente, come dire, deluso. Voglio dire, vogliamo essere cinici una volta, era una storia pazzesca per chi fa il nostro mestiere. Era in diretta, era sui siti. Era una storia drammatica perché c'era di mezzo un giornale, dei giornalisti, dei vignettisti, dei disegnatori, dei raccontatori che molti sono anche conosciuti in Italia. E la televisione italiana, il giornalismo italiano, di fronte a tutta questa cosa qua, che cosa fa? Non racconta nulla, nulla. Fa delle trasmissioni sull'immigrazione, ma che cosa c'entra? Non è stato raccontato in nessuna trasmissione televisiva che cos'è Charlie Hebdo, chi erano i vignettisti, quali propensioni avevano culturali, da dove venivano, le vittime, i terroristi, niente. Talk show sull'immigrazione, ma c'era bisogno di una strage a Parigi per fare un talk show sull'immigrazione? Sera del 7 gennaio, solo la 7 cambia il palinsesto. E fa appunto un talk show. Intanto solo la 7 cambia il palinsesto, un talk show invitando i politici. La Rai non cambia i palinsesti, affida, come già successo, l'informazione solo a Rai News 24. Un po' poco, secondo me, però ovviamente sono punti di vista. I talk show diventano i talk show superstiti, ad esempio Porta a Porta, che come sentiremo dopo va in onda in una forma un po' particolare. Diventano così appunto occasioni di dibattiti politici. Qualcuno si è arrabbiato. Un dibattito su Mare Nostrum. Sì. Sono finite le trasmissioni, peraltro tutte uguali. In tutti i canali tu accendevi, c'era un dibattito su Mare Nostrum. Qualcuno ne ha scritto, ieri mattina in prima pagina ha sul trovato giornale, le parole in maniera trovato, più pacato rispetto all'arrabbiatura di Daniele Bellasio. Buonasera Maurizio Caverzan. Buonasera a voi, ciao anche a tutti gli ascoltatori. Il giornale, prima pagina nella quale sostanzialmente tu hai raccontato quello che è successo la sera del 7 gennaio, appunto Daniele Bellasio lo hai sentito particolarmente arrabbiato per quello che sì. Non ha visto in televisione, soprattutto non ha visto sul servizio pubblico, possiamo dirlo. Certo. Maurizio, tu cosa ne pensi? No, intanto concordo con Daniele a proposito della insistenza sul tema dell'immigrazione, che è un po' diciamo fuori luogo, perché i protagonisti negativi di questa storia sono due ragazzi francesi, quindi hanno passaporto francese, quindi è un discorso che è fuori luogo e viene solo, come dire, addomesticato a fini interni per questioni che potremmo anche dire di propaganda politica, ecco. E l'altra questione grossa è secondo me proprio l'assenza, la latitanza di nostra, insomma, soprattutto di chi, come i colleghi della RAI, che hanno un compito specifico di servizio pubblico, hanno latitanza che hanno nella quale sono incorsi nel giorno e nella prima serata successiva al massacro di Charlie Hebdo. Anche a me fa rabbia questa cosa, perché solitamente siamo circondati di talk show quando succede poco o nulla, talk show pieni di politici che si parlano addosso, ma quando capita una cosa come questa, dalle grandi implicazioni, dalle grandi conseguenze internazionali, dalle implicazioni culturali che coinvolgono anche dimensioni religiose, spirituali per chi ci crede, si constata proprio una pigrizia, una lentezza di riflessi che lascia davvero basiti, insomma. Io ho la sensazione che proprio la cultura del servizio, cioè che è la missione della TV pubblica, ormai sia stata, come dire, sopravanzata dalla autoreferenzialità di tanti conduttori che sono così protesi alla corsa, all'audience, ma un po' meno alla volontà di informare con completezza, con autorevolezza. Ecco Maurizio, quella sera non vengono cambiati i palinsesti, Rai 1 manda in onda la fiction come previsto, ieri sera forse anche a causa di queste critiche qualcosa è stato cambiato, ieri sera c'è stato uno speciale Porta a Porta, ma la sera stessa dell'attacco a Charlie Hebdo Porta a Porta va in onda con una sorta di anticipazione e poi succede questo. Allora, prima di congedarci per ora, Di Bella, siamo sempre... Allora, aspetta, Michel, che te le chiamo io, perché non ho ancora capito se all'inizio vogliono le immagini o no. Allora, mi senti? Mi senti, Antonio? No, Antonio Di Bella non mi sente più, non ci sono però aggiornamenti in questo momento, quindi adesso sentiamo un po' di pubblicità, il brevissimo TG1 di mezzasera, poi partirà Porta a Porta con questa celebrazione con degli inediti davvero, perché mai Gigi D'Alessio aveva suonato, aveva cantato insieme con James Senese e con Lina Sastri con Tullio L'Episcopo per ricordare Pino Daniele, come faranno stasera. Vedremo le immagini dei funerali, ma interromperemo in qualunque momento per darvi aggiornamenti su questo blitz, sembra, in corso a Reims. A tra poco. E quindi poco più di mezz'ora di anticipo di Porta a Porta prima del TG dedicato al massacro di Charlie Hebdo e poi si passa, per carità, una notizia importantissima dalla quale parleremo anche dopo, si parla della scomparsa di Pino Daniele. Daniele guardava il soffitto sconsolato. Io non so chi abbia preso questa decisione, ma francamente, cioè, noi abbiamo spesso parlato benissimo anche di Bruno Vespa, maestro, però... Non funziona, Maurizio, non può funzionare così, no? Di Bella, no, le può. Immagini, le cose. No, no, non può funzionare così. Lui aveva già registrato la sua puntata dedicata così al ricordo, alla commemorazione commossa, struggente del povero Pino Daniele con gli ospiti e la tragedia di Parigi ha preso tutti in contropiede, però insomma... 11 del mattino, è iniziata alle 11 sì, del mattino. Appunto, cioè, dire... C'era tempo. No, ma c'era molto tempo per come dire, attrezzarsi, per dire, Canale 5 con Matrix ha fatto un'edizione straordinaria, non prevista, monografica. Però anche lì, dibattito sull'immigrazione, destra-sinistra, Magdi Cristiano Allam, Salvini da una parte, gli altri dall'altra, cioè... D'accordo, no, è diverso. Sono d'accordo con te, ormai un vizio, un riflesso condizionato, ormai siamo abituati purtroppo da anni di scontri, di divisioni in fazioni, di bipolarismo politico che è anche, ahimè, culturale, siamo abituati subito a dividerci, a prendere parte e a cogliere i riflessi appunto sulla politica di quello che accade prima ancora di vedere veramente che prima ancora di stare alla realtà, cioè di raccontare la realtà. Abbiamo parlato di scontri, io vorrei con tutto l'affetto per Giuliano Ferrara però sentire qual è stato lo scontro più aspro di questi giorni. Servizio pubblico sulla 7, ecco cosa ha combinato Giuliano Ferrara. L'Islam radicale non è terrorismo, è un universo. È guerra santa islamica contro sì. L'Occidente cristiano e giudaico. Oh, ma quando lo vorrete capire? Ma questo? Fatto da terroristi. Guerra santa, fatta da terroristi. Fatto da terroristi. Fatto da terroristi. Fatto da commercianti, fatto da giovani delle banlieue, fatto da intellettuali, fatto da tutti dei servizi segreti, fatto da eserciti, fatto da califfi, ma ancora non l'avete capito! Però, ma che devono fare ancora per farlo? Io dico che che cazzo dici terrorismo? Aspetta, guerra santa islamica contro l'Occidente cristiano e giudaico! Allora. E se negate queste cose siete un branco di coglioni! No, cosa dici? Preferiamo essere coglioni! Ops, ecco, faccio una domanda sia a Daniele che a Maurizio Caverzan, perché a questo punto mi chiedo se il talk show non sia il formato meno adatto per parlare di queste, o perlomeno il talk show come lo intendiamo noi. Allora, all'inizio della stagione io ero favorevolmente impressionato dal fatto che Corrado Formigli, nella sua trasmissione sempre sulla 7, aveva provato ad anticipare i talk show con dei reportage. C'è anche tornato ultimamente, ci ha riprovato. Poi però la tentazione di ricadere nel facile, allora due di destra e due di sinistra, riconquista la prima serata. Il problema è che non siamo più capaci di raccontare attraverso i reportage. Evidentemente per me è questo il problema. Non so, Maurizio, tu che ne pensi? No, io condivido in pieno, guarda, condivido in pieno la necessità di lavorare sul racconto racconto per immagini, racconto per inchiesta, racconto del reportage. Anche a me era piaciuto, e anzi mi era piaciuto anche già l'anno scorso, mi erano piaciuti alcuni tentativi dello stesso Michele Santoro con Servizio Pubblico sì. Più. E poi diciamo anche una certa svolta in questa direzione in qualche modo l'aveva data la vittoria al Festival di Venezia sempre dell'anno scorso di un documentario come Sacro Gra, che poi poteva piacere o non piacere, però comunque era un modo, anche il cinema sta andando in qualche modo verso un cinema trattino realtà, come si dice. Invece sono, come dici tu, tentativi ancora timidi e che poi vengono, come dire, affogati, sommersi dal ritorno dello scontro, della divisione, delle fazioni, appunto, come dici tu, di Cristiano Allan, che peraltro è una firma del mio giornale, da una parte, Salvini dall'altra, insomma. Ci sono queste semplificazioni, queste è più facile dividersi così, ed è anche più facile farlo, diciamo, se si ha come obiettivo principale quello di far lievitare un po' gli ascolti, per cui se ci sono due o quattro che litigano, che si danno sulla voce, si spera che l'Auditel premi purtroppo questo costume, insomma. Speriamo di fare il più tardi possibile di nuovo queste riflessioni, speriamo che passi più tempo possibile. Grazie Maurizio Caverzan per essere stato con noi. Grazie, buona serata. Grazie Maurizio, a voi. Ciao. Radio Tube. Daniele, puntata complicata questa diversa di Radio Tube. Dal solito, sì, non diversa, ma era giusto fosse diversa dal solito. Però invece restano uguali et Marta Cagnola et Di Bellasio, l'hashtag Radio Tube. Questo è l'ultimo blocco. Parliamo di Pino, Daniele. Sì, perché abbiamo dedicato tutta la prima parte della trasmissione ai fatti di Parigi, all'attacco a Charlie Hebdo. Non era possibile non farlo, anche perché, insomma, lo dico sempre, noi parliamo di quello che succede nel mondo visto attraverso lo sguardo della rete, e questa volta è stato proprio fondamentale lo sguardo della rete. In realtà è stato fondamentale, ai noi, anche la notte della scomparsa di Pino Daniele. Ah, giusto, perché la notizia è stata data sui social network, Ramazzotti. È stata data da Eros Ramazzotti su Instagram. Ma io vorrei intanto ricordare Pino Daniele. Sai che non sapevo canta. Cosa scegliere? Non sapevo cosa scegliere, vabbè, alla fine. Un giorno che non va? La mia preferita? Alla fine ho scelto una delle mie preferite. Per una volta ho scelto una delle canzoni che preferisco io. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca, forse in Africa, chi importa. Tu dimmi quando, dove sono le tue mani ed il tuo naso, verso un giorno disperato, ma io ho sete ancora. Non sapevo davvero cosa scegliere e ho scelto questa anche perché è stata una delle immagini più condivise dai social network, quella di Pino Daniele insieme a Massimo Troisi. No vabbè, scegliendo questa hai messo, diciamo, tutti d'accordo. Sì, avevamo già parlato di Massimo Troisi in una puntata insieme, perché avevamo sottolineato quanto Massimo Troisi fosse ancora presente, e in questo caso è tornato a essere presente, tornato a essere ricordato sempre nell'immaginario di tutti, Massimo Troisi. Lo dicevamo, la notte in cui purtroppo è scomparso Pino Daniele, la notizia si è diffusa tramite Instagram, perché ha postato la notizia Eros Ramazzotti. Intanto i fan, l'incredulità, il fatto che molti sperassero nell'ennesima bufala della rete, mm-hmm. perché è uno dei meccanismi più assurdi, più inspiegabili, il fatto che in rete ogni tanto si faccia morire un personaggio noto, succede sempre, succede sì. negli Stati Uniti, succede in Italia. Anche perché poi lui aveva cantato e suonato... qualche giorno prima, sì, esatto. sì a Capodanno e tutti quelli che commentavano però il profilo Instagram di Eros Ramazzotti dicevano: non è possibile che sia Eros Ramazzotti sì. a diffondere una cosa non vera. Gli altri colleghi artisti hanno cominciato subito a postare, Laura Pausini, Negramaro, perché raccontavano di aver telefonato a Eros Ramazzotti, di essersi scambiati messaggi proprio con Eros Ramazzotti, e in tanti hanno fatto invece una riflessione sul giornalismo, perché le prime agenzie sono state battute la mattina dopo e il giornalismo non c'era, dormiva. È una riflessione interessante. Qualcuno invece ha detto semplicemente: il ruolo del giornalismo è quello di verificare, di postare. Ecco, ma vedi, torniamo a quello che si diceva prima. Forse il ruolo del giornalismo non è più quello di dare la breaking news, che arriva in molti modi, ma per esempio di raccontare più che le polemiche. Anche su Pino Daniele si sono montate polemiche, sì. video di discussioni, di litigate, i funerali, le cose. Manca anche qui. Io, per esempio, che conoscevo Pino Daniele ma non lo conosco bene come altri cantanti, avrei preferito leggere più racconti, il rapporto con Troisi, le questioni del cuore di entrambi, le sofferenze, boh, non lo so, ho sempre la sensazione che vengano lanciate delle cose per vedere l'effetto che fa, piuttosto che raccontate delle persone, dei fatti. Però la rete invece io sono d'accordo con te, la rete invece invece i cantanti si sono organizzati sì, subito sì, questa, sì, questa sì, bisogna dire sì. abbastanza un inedito, così sì. così tanto subito, che si parlavano tra di loro, che lo elogiavano, lo ricordavano, è stato forte. La rete ha raccolto gli umori dei colleghi, gli umori dei fan, anche lì le polemiche sui funerali, poi i doppi funerali, ma una cosa molto bella che è successa a Napoli è stata la risposta... Cioè, ma per esempio, ma può essere notizia che due forse hanno un pochettino contestato Massimo D'Alema? Ma perché? Povero Massimo D'Alema voleva andare... Allora, la notizia dell'evento diventa questa cosa. Questa è colpa della rete, però. Questo è colpa della rete. No, diamogliela una colpa. Il merito della rete, il merito della rete, io ascolterei... Flash mob. Un pezzettino... Sì, sì. A me non piace chiamarlo flash mob. Perché? Perché secondo me dovremmo trovare anche delle espressioni... Italiane? Un po'. Sì, perché vabbè, no? Vabbè, ma cosa... No? Che flusso di... E poi flash mob sarebbe a sorpresa, invece qui è stato organizzato Pensato. Proprio bene. C'erano davvero tantissime persone in piazza del Plebiscito. Il 20 anni. Le immagini da Piazza del Plebiscito di quella sera, ma sono... quanti erano che cantavano? Erano veramente tanti, e posso dire che sono ancora più belle e toccanti che non l'immagine del funerale, che poi è stato appunto sporcato da queste polemiche. Un funerale, due funerali, il diritto di accedere alla camera ardente, anche lì con qualcuno pare che abbia cercato di fotografare, di mettere sì, in rete, ecco, come se tutto ormai fosse... fotografabile, sì, sì. e tutto fosse da postare in rete, sui social. Prima si diceva che per esistere bisogna andare in televisione, adesso invece adesso bisogna farsi per vivere selfie, bisogna farsi sì. un selfie. Invece quello con che è successo, la bacchettona, quella roba lì terribile, vabbè, che andiamo brutta avanti. Cosa quello che è successo in Piazza del Plebiscito con queste persone, no, perché che cantavano tutti. Ho letto tutti. Delle cifre impressionanti sul numero di persone, decine di migliaia di persone, con video bellissimi che io ho guardato un po' su YouTube, con questa folla di persone che si illuminavano con i telefonini. Video in rete, abbiamo sentito questo brevissimo audio tratto da uno dei tantissimi video su YouTube, ovviamente decine di migliaia di persone, centinaia di video su YouTube, del, lo dico, flash mob della sera della scomparsa di Pino Daniele a Napoli. Ma uno dei video più condivisi, più rilanciati in rete in questi giorni, mi segnalavi, era un'intervista che... Eh sì, no, questa è la parte bella, perché ovviamente quando viene fuori una notizia così triste, uno come tirando fuori dal cassetto, quando vuoi ricordare le vacanze, quando vuoi ricordare bei momenti del passato, tiri fuori dal cassetto delle cose, no? Dai regali dei fidanzati, tu immagino, tanti libri, non lo so, tanti regali, non tanti fidanzati. Ma... E così la rete ti permette di tirar fuori un'intervista di Pino Daniele alle Iene, se non mi ricordo male. Ebbene sì, un'intervista nella quale parlava era con... Era simpatico, perché sì. Poi era... Perché sapeva quella... di essere burbero, sapeva di essere sì, spigoloso. Ma era un burbero acuto, per cui risultava alla fine tenero e simpatico. Sì, sono d'accordo, ecco quello che raccontava alle Iene qualche anno fa Pino Daniele. Quante chitarre hai? Non molte, perché non mi piace vivere di ricordi. Quanti figli hai? 5. È vero che hai problemi alla vista? Sì, non vedo niente. Che a volte è comodo, perché se su un palco ce ne sono 200, ce ne sono 10.000, la stessa cosa. In cosa condiziona la tua vita questo problema? Ma ha condizionato sempre. Hai paura della morte? No, assolutamente no. Per me il vero mistero è la vita, non è la morte. Che canzone vorresti al tuo funerale? No, non voglio canzoni. Quando uno è morto, è morto. Ma se ne suonassero una di D'Alessio? Io lo chiederò. Tua bocca, forse in Africa, che importa? Tu dimmi quando, quando. Grande affetto, grande partecipazione. Speriamo poche polemiche in futuro ancora sulla scomparsa di Pino Daniele. Ma insomma, purtroppo sono ancora lì che vanno avanti. Purtroppo vedo che in questi giorni si discute ancora molto. Che peccato. Voglio fare un passo indietro. A dicembre, un mese fa, era scomparso Pino Mango. Anche lì grande partecipazione dei fan. E in quel caso ne parlammo anche a RadioTube. Il video della successo praticamente sul palco mentre cantava la sua canzone forse più famosa, Oro. Sì. E tante riflessioni. Questa settimana a postare sulla pagina ufficiale di Pino Mango su Facebook Laura Valente, cioè la moglie di Pino Mango, con i ragazzi Filippo Angelina e i figli, una riflessione sul dolore che ha accompagnato la perdita improvvisa di Pino Mango e la riflessione su quel video. Laura Valente scrive: un breve passaggio credo vada fatto riguardo la polemica sollevata dal video di Policoro, che ho visto e rivisto non so quante volte, nonostante fossi lì quella sera per cercare di capire come mai nessuno di noi avesse capito, per cercare di capire se lui avesse capito, per cercare di capire se fosse giusto lasciare il video in rete o, in quanto unici eredi legittimi a tutelare l'immagine artistica e personale di Pino, pretenderne la rimozione immediata, come tanti di voi avevano auspicato. Cari amici, scrive Laura Valente, ancora non lo so. Una parte di me non tollera che i ragazzi possano vedere la morte del padre spiattellata pubblicamente, ma un'altra parte di me continua ad avere dei dubbi. So solo che, persa in queste disperate riflessioni, all'improvviso qualche sera fa mi sono ritrovata a pensare a un libro che amo tanto e che di tanto in tanto rileggo. In particolare mi è venuto in mente il suo commovente e bellissimo finale, l'ultima pagina del Piccolo Principe. E dopo aver riportato l'ultima pagina del Piccolo Principe, Laura Valente scrive: ecco, se può esistere bellezza in una fine, io qui la vedo come sinceramente la vedo nel video di Policoro. Spesso Pino aveva detto a me e ai ragazzi sorridendo: se mai dovessi morire vorrei che ciò avvenisse su un palco, mentre sto cantando, mentre faccio il mio lavoro, e c'è riuscito. E come se c'è riuscito. Parla della finale del suo spettacolo come un raro esempio di bellezza, eleganza e umiltà, come d'altronde è stato tutta la sua vita. Bellissima Laura Valente, mia. Si può dire delle parole che non si possono neanche commentare, perché no, perché è grande come l'abbraccio che dei fan nostro. Splendida, una donna straordinaria veramente, alla quale non si può che mandare un abbraccio. E anche Angelina, la bimba che ha scritto delle cose bellissime sul profilo di Pino Mango, insomma il profilo pubblico di Facebook, quindi tutte le potete ritrovare. Che puntata di RadioTube, Daniele, insomma erano successe tante cose che ci hanno fatto riflettere questa settimana. Come dice Pino Daniele, il mistero è la vita, no? Il mistero è la vita. Daniele, la prossima settimana ti prometto che sorrideremo e diremo ancora un po' di stupidaggini. Speriamo di poterlo fare, dai, speriamo di poterlo fare. Intanto Marta Cagnola, di Bellasio, cancelletto RadioTube, ma c'è anche il sabato del villaggio, perché alle 15 e in più c'è un'altra cosa. Il lunedì podcast. Giovedì gnocchi, venerdì di magro e lunedì podcast. Grazie a Filippo Aureggi in regia. Noi ci ritroviamo sabato prossimo ancora con RadioTube. Ciao!